benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza, e che la Madonna ci aiuti davvero, e oggi ne abbiamo molto bisogno. Allora, se il Signore ci aiuta, adesso vediamo se qui almeno funziona tutto, ma oggi è una giornata un po' campale con le strumentazioni elettroniche, a causa di quello che vi ho detto. Detto qua, successo il miracolo, dovremmo fare il libro del Coelet. Il libro del Coelet che rappresenta un po' quella che potremmo definire, vedete che bella slide che c'è adesso, guardate che bella slide. Guardate bene questa slide, che per trovarle queste cose, guardate, i fiori, i gioielli, le anfore, alcune tracce di vestiti, i cristalli preziosi, ecco, tutte queste, col teschio vicino, ecco. A simboleggiare il fatto che tutte queste cose, a cui noi diamo tanto peso, spesso e volentieri, servono assolutamente a nulla. Ecco, e questo perché il libro del Coelet, vi ricorderete dalla volta scorsa, speriamo, qualcosa, si potrebbe definire il libro che serve a insegnarci e quindi a distaccarci dalla vanità del mondo. Ecco perché c'è questa slide così significativa. Che c'è? Ora, vediamo alcune note introduttorie. Anzitutto, Coelet, in latino si traduce Ecclesiaste. Se voi prendete la Bibbia, la Vulgata, trovate che il libro del Coelet viene chiamato Ecclesiaste. Sapete che Ecclesia in latino significa chiesa, e in effetti Ecclesiaste è la traslitterazione latina appunto del termine Coelet, perché Coelet viene da Kahal, e Kahal in ebraico significa assemblea. Sapete che Kahal, dicono gli esegeti, è il termine originario. La Kahal Yahweh era praticamente l'assemblea liturgica di Israele. Kahal, cioè assemblea, in greco si dice ecclesia, e quindi la traslitterazione latina è Ecclesiaste. Quindi quando leggete qualche libro dei santi o qualche testo classico che vi dice l'Ecclesiaste, fa riferimento al libro del Coelet. Adesso noi lo chiamiamo libro del Coelet, però tra poco vedremo perché. Perché Coelet è colui che si designa come l'autore. Dopo apriamo subito una questione immediata. E mentre vi preannuncio fin da ora che l'ecclesiastico, non l'ecclesiaste, ma ico, è il nome antico, tradizionale del libro del Siracide, che a Dio piacendo vedremo tra qualche incontro, perché adesso noi stiamo nella Settimana Santa. È quanto di più adatto il Coelet per vivere una santa settimana santa, e mentre martedì prossimo avremo il Cantico dei Cantici, che è il libro delle nozze con l'agnello, quindi con l'agnello risorto, quindi è... ecco. E poi concluderemo gli ultimi incontri biblici di quest'anno appunto con i libri della Sapienza e del Siracide, che sono gli ultimi sapienziali, che poi a maggio sapete che c'è lo stop, a giugno andiamo in vacanza e... cioè andiamo in vacanza, insomma, comunque vabbè, più o meno. E l'anno prossimo penso che faremo tutti quanti i profeti, perché fare i profeti insomma ci vorrà un bel po'. Allora, il libro è tradizionalmente attribuito a Salomone, perché vi faccio subito vedere il versetto 1, come già la volta scorsa, Paore di Coelet, attenti, figlio di Davide, re a Gerusalemme. Allora, la grande questione che gli esegeti classici e gli esegeti moderni risolvono esattamente in senso contrario. Allora, o Coelet è lo pseudonimo di Salomone, perché figlio di Davide, re a Gerusalemme, chi è? Ormai avete imparato quest'anno i libri dei re, no? Chi era il figlio di Davide che ha regnato a Gerusalemme? Era Salomone. Quindi, o Coelet è lo pseudonimo di Salomone, o Salomone è lo pseudonimo di Coelet. Sono due le cose. Allora, i classici dicevano che Coelet è lo pseudonimo di Salomone, o meglio, è il nome con cui si designa Salomone, in quanto Coelet letteralmente viene da Kal, significa uomo dell'assemblea, quindi colui che adesso deve fare un discorso principalmente rivolto ai membri della Chiesa. E per questo motivo, quindi a coloro che fanno parte del popolo di Dio. E per questo motivo si designa appunto sotto questo nome, quindi non semplicemente Salomone, ma appunto Coelet. Invece c'è un'altra versione, diciamo così, del discorso, che è quella seguita dagli esegeti contemporanei, cioè che il testo non è di Salomone, ma è da collocare molto più avanti. E Coelet è un misterioso autore e si colloca, cioè usa Salomone perché Salomone era il simbolo della sapienza e quindi designandosi col termine di Salomone, sei impazzito? Designandosi col termine di Salomone praticamente viene a nascondersi, diciamo così, sotto il maestro della sapienza, quindi intende esprimere il fatto che attraverso questo libro vuole proporsi appunto come maestro di sapienza. Scegliete voi la soluzione che preferite, io inutile che vi dico quella che preferisco io, perché sono sempre abbastanza amico della tradizione, quindi preferisco seguire, nonostante le cose in contrario, la tradizione. E detto questo, passiamo, quindi il libro del Coelet è distinto in 12 capitoli e contiene una raccolta di meditazioni sapienziali sul senso, fondamentalmente sul senso della vita e sul senso della morte. Non ha un ordine, non vi risparmio tante le cose, ma gli esegeti contemporanei si sono scervellati per capire il piano, diciamo ci sono delle zone fondamentalmente omogenee, però a volte si passa completamente da un discorso a un altro in maniera in parte simile al libro dei proverbi, però non proprio del tutto, perché ci sono delle sezioni, adesso le vedremo, che fondamentalmente sono abbastanza omogenee, poi a un certo momento cambia discorso, poi riprende, poi, cioè, quindi non si capisce per la verità molto bene. Certo, se uno fa attenzione si possono dare varie possibilità, insomma, di ricostruzione, però fondamentalmente non è che si capisce un granché, ecco, questo è il senso del discorso. Conseguentemente possiamo individuare però alcune tematiche affrontate. Le tematiche affrontate sono: il bene e il male, la vanità del mondo, soprattutto dei piaceri e delle ricchezze, la ricerca della sapienza, l'inesorabilità della morte e l'importanza del timore di Dio. Attenzione, se vi ricordate la volta scorsa, i padri della Chiesa, facciamo un po' di ripasso, individuavano nel libro dei Proverbi, il Coelet e il Cantico dei Cantici, una trilogia corrispondente più o meno ai tre gradi del processo di santificazione personale, ovvero del cammino verso la santità, cioè principianti, proficienti e perfetti, o gli incipienti, i provvedienti e i santi, come preferite, insomma. Perché ci sono, diciamo, questi tre gradini della vita interiore, o anche la fase illuminativa, purgativa e unitiva, sono vari i nomi con cui sono stati designati nella letteratura spirituale. Ora, subito dopo la conversione, quindi dopo che una persona comincia a distaccarsi almeno dai peccati gravi, Santa Teresa d'Avila scrive nei suoi libri che la stragrande maggioranza delle persone, e già questo è tanto se tutto va bene, smette di fare qualche peccato mortale e si ferma lì. Questa è la quasi totalità dei fedeli. Una sparuta minoranza prosegue il cammino, ma per proseguire il cammino non basta stare lontano dalle colpe gravi, perché per percorrere il cammino della santificazione progressiva occorre conoscere la vanità del mondo, in modo tale che uno lo disprezzi e quindi, non essendo più tirato dal mondo, voglia il suo cuore, la sua volontà altrove, quindi lo voglia verso Dio. Quindi c'è bisogno, ovviamente, i discorsi che si fanno nel Coelet, spero che voi non siate così, sono discorsi non, come dire, gradevoli ai sensi né al gusto. Lo vedremo, penso che tutti sappiate che Vanitas Vanitatum, vanità delle vanità, è l'inizio del libro del Coelet, vanità delle vanità. Quindi ci sono tutta una serie di affermazioni molto, che noi oggi definiremmo molto pessimistiche, cioè che tendono a creare un forte senso, diciamo così, di disappunto, di sconforto, di repulsione, diciamo così, ecco, verso la vita e verso le cose di qua giù. Ovviamente ci sono due modi di intendere questo tipo di discorso: o il modo, come dire, radicale, quindi il disprezzo totale, o il modo un po' meno radicale, che è la relativizzazione. Almeno questo secondo modo è necessario per percorrere il cammino di santificazione, cioè se il mondo non lo si disprezza completamente, come hanno fatto i grandi santi, i grandi asceti o i grandi religiosi, quindi si è in qualche modo costretti, come siamo tutti noi, a vivere nel mondo, bisogna comunque relativizzarlo, perché altrimenti il mondo ci risucchia e non sarà assolutamente possibile praticare le virtù cristiane, né tantomeno farle in grado eroico, come richiede il cammino verso la santità. Quindi questo libro ha proprio il compito di distaccare l'uomo dalla vita terrena e dalla sua vanità. Ecco perché la slide seguente presenta una delle tante icone della vanità, che è femmina. Vede lì una donna vicino ai gioielli, vicino alle anfore, ben vestita, insomma, ben curata. Dopo ce ne starà una peggio, ve lo dico subito, all'ultima slide. Adesso ci stanno pure i maschi, purtroppo, vedete che i segni dei tempi, tu non ride, i segni dei tempi. Allora, cominciamo subito quindi con una lettura del famosissimo capitolo primo del libro del Coelet, che è un po' l'overture, un po' il programma. Vedremo che comincia con vanità delle vanità e poi, prima dell'epilogo, al capitolo 12, proprio prima degli ultimi righe, viene proprio ripresa letteralmente questa espressione. Quindi il libro del Coelet sta, come dire, incluso in queste due espressioni: vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Ora, capite, il termine vanità, sotto che farò forse un pochino di cioè designa, vano, sapete che, se aprite l'enciclopedia, significa fondamentalmente inutile. più che inutile si dovrebbe un attimo identificare come effimero. Cioè, sapete cosa sono le cose effimere? Le cose effimere sono le cose transeunti, cioè le cose che ce l'hai un momento e poi passano, le cose che non rimangono. Ora, una dimensione questo prima ce l'assegniamo e meglio è, perché una dimensione fondamentale della vita terrena è proprio questa. Cioè la vita terrena è caratterizzata intrinsecamente, ci credi o non ci credi, ti piace o non ti piace, non lo vuoi pensare o non ci vuoi pensare, da questa caratteristica. Le cose terrene sono effimere, cioè ci sono in un istante e svaniscono in un altro. Cioè, io posso uscire di qua, mi viene un infarto, è finito Don Leonardo. Non è, potrebbe succedere tranquillamente. Tra mezz'ora questo incontro biblico sarà archiviato. Adesso con i potenti mezzi della comunicazione possiamo cristallizzarlo in un file audio, d'accordo? Però la realtà presente che stiamo vivendo scorre inesorabilmente. Ho detto inesorabilmente. Signore mio, ho detto inesorabilmente. L'ho detto qualche istante fa, qualche istante fa non tornerà più. Tutte le cose che noi abbiamo, avete visto? Abbiamo una cosa, tutte le cose terrene. Appena ci sembra che adesso stiamo a posto, ho la casa sistemata, stiamo sempre a fare la manutenzione, stiamo sempre a aggiustare, stiamo sempre a mettere i punti, cioè non esiste. Allora, è da matti, è da folli, è da stupidi fondamentalmente porre la propria sicurezza, il proprio cuore, la propria vita, dirà Gesù nel Vangelo, chi cerca la vita in questo mondo la perde, nelle cose del mondo, perché la vita lì non ci sta. Le caratteristiche che noi tutte cerchiamo, questo ce l'abbiamo nel cuore, è una cosa stabile, una cosa che rimanga, è una cosa che mi dia soddisfazione senza bisogno che io fatichi per ottenerla, e senza che questa soddisfazione, una volta ottenuta, mi nausei, mi dia noia e mi costringa a passare ad altro. Però di fatto tutte le cose terrene sono così. Chi è stato vizioso oppure chi è stato immerso nelle cose del mondo, questo lo sa. Se uno comincia, come voi signorine facevate, speriamo al passato, a curarsi il corpo in maniera malata, sta tutto il giorno, perché un giorno deve fare la ceretta, poi un giorno deve togliersi i piedi dentro le orecchie, poi un giorno deve farsi l'ascella, poi un giorno deve sporchi i capelli, poi un giorno deve mettersi lo smalto alle unghie delle mani, l'altro giorno le unghie dei piedi, l'altro giorno deve qua, poi deve andare a fare tatuaggio, poi quell'altro è più bello, ho visto quest'altro, poi deve mettere il piercing sulla orecchia, sull'altra orecchia, sul naso, sulla pancia, sul sedere. Cioè, è una cosa continua. Capite? Quindi vedremo che a un certo punto le espressioni che usa il mitico Coelho. È follia questa qui, è roba da matti, ecco. E dice: quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Fa i soldi, viene, una volta era più bello che ci stavano le banconote, viene il topo, se ne mangia. Ma purtroppo abbiamo le banche online, non sta più il topo, però le banche online, viene un blackout dei computer, io ho il conto online, se viene un blackout dei computer sono rovinato, non c'ho più la lira, finito. Quindi, perché non è che se le togli dal topo le hai messe al sicuro, peggio ancora, le hai messe sotto i computer. Quindi ecco, vabbè, una generazione se ne va e un'altra viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta a tornare laddove rinasce. Shhh. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va sui suoi giri, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Mi sei mai chiesto come mai? Com'è che il mare non si riempie mai? Adesso noi siamo super scienziati, quindi ne sapremo un pochino di più, no? Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere, tutte le parole si esauriscono. Guardate questa, che nessuno è in grado di esprimersi a fondo. noi non siamo in grado di esprimerci a fondo, cari ragazzi. Tante volte sperimentiamo proprio l'incapacità, noi abbiamo un'idea magari chiara nella mente, io che devo tante volte parlare in pubblico, questo succede un sacco di volte, e non si riesce a esprimersi, c'è sempre qualcosa che dice questo lo potevo di meglio, però questo non l'ho capito bene, se mi sono spiegato bene, c'è sempre qualcosa che va oltre. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Pensate alla vanità dei sensi. Chi di voi come me si è visto 100 miliardi di film? Vedi un film oggi, finito, poi un altro domani, poi un altro dopodomani. L'altro giorno parlavamo, dice, i mezzi di oggi, tu te compri Sky, e sta attento a comprare Sky, perché c'è la gente che sta dalla mattina alla sera davanti al televisore, perché lì 300.000 film in prima visione, 400.000 partite di calcio, 730.000 sport dirette, questo, quell'altro, telecomandi che tu puoi vedere le chilogrammi a richiesta, registri, cose, se no sta tutto il giorno lì davanti. E non c'è niente da fare. Non si sa che non si sazia l'orecchio di udire, questo lo sanno soprattutto le signorine pettegole, stavo tutto il giorno a fare cici, cicù, cici, cici, cici, cici. O le ultime notizie. Allora, attenzione pure alle notizie, noi dobbiamo sentire le notizie ogni tanto, perché non possiamo, dice qualcuno, campare al di fuori del mondo, insomma, se non altro per sentire tutte le marachelle che combinano nel mondo e pregarci un po' sopra. Però se sentite il telegiornale ne basta uno. Io non so se avete conosciuto la gente fissa, cioè ci sono alcune famiglie, io lo so, cioè prima Rai 1, poi Rai 2, poi Rai 3, poi Rai 4, poi Canale 5, poi Italia 1, poi la 7, poi Sky, TG24, TG28, TG36, cioè perché c'è sempre qualcosa. La grande sapienza dei libri sapienziali. Poi un'altra frase: quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Questo è vero anche oggi che abbiamo internet, Sky, YouTube, i treni ad alta velocità che fanno fare le manifestazioni a quei matti che stanno lì in Val di Susa, eccetera, perché si tratta semplicemente di rimodulazioni in forma più progredita delle solite stesse vecchie cose dell'uomo. Non è che cambia la sostanza, cambia la forma, cambia il modo, d'accordo? Ma fondamentalmente il cuore dell'uomo rimane sempre lo stesso. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Se uno ci pensa bene, no, questo lo lascio proprio come compito a casa, e neanche oggi. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Arriva sorella morte e ci consegna nell'oblio. Quando staremo sotto un metro di terra, nessuno si ricorderà di noi. D'accordo? E passato il primo annetto, neanche ci verranno a mettere un fiore sulla tomba. Non dico, poi faccio dire messe gregoriane, insomma, quindi questo proprio. Io, Coelet, fui re a Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa. Quindi, la ricerca della sapienza che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Noi ci avevamo la scienza infusa, cari miei. Se Adamo, se fosse, non c'era la televisione allora, se ci fosse stato Sat 2000 soltanto, quindi con le trasmissioni sante, non Canale 5 Grande Fratello, se ci fosse stato Sat 2000 e Adamo si fosse visto un bel po' di bei programmi su Sat 2000, sarebbe stato molto meglio. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole ed ecco, tutto è vanità e un correre dietro al vento. Tutte quante le follie di quelli che stanno sempre a lavorare, c'hanno sempre da fare, ma che devi fare? Però sai che devi fare? Ah, io non posso venire a messa la domenica perché ho tanto da fare, sto sempre a correre, ma che te corri, che stai a fare? Hai visto la parabola del Vangelo del ricco stupido? corri, corri, ora, amo, adesso mi sono fatto una bella muro, faccio il bel granaio e mi metto a panza all'aria. Gli dice: cretino, questa notte ti sarà richiesto il conto della vita, poi lo dirà qui, e tutti i soldi tuoi se li mangeranno figli e nipoti, manco te fanno dire messe gregoriane, questo è il problema. Che hai fatto? Dove vai? Ciò che è storto non si può raddrizzare. E quel che manca non si può contare. È molto difficile raddrizzare quello che è storto. Fratelli e sorelle carissimi, l'assicuro io che mi avveleno nelle confessioni e nelle direzioni spirituali che mi faranno fare 100 miliardi di anni di purgatorio, perché ecco, perché è difficile, difficile anche in noi, è difficile anche raddrizzare quello che è storto in noi. Molto difficile. Pensavo e dicevo fra me: ecco, io sono cresciuto in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza come anche la stoltezza e la follia. E ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Grandi filosofi, che te pensi? Se leggete l'imitazione di Cristo, dice: quando andremo dall'altro mondo non ci sarà chiesto quello che abbiamo studiato, quello che abbiamo pensato, ma quello che abbiamo fatto. Ecco, infatti, questa è sacrosantissima verità: molta sapienza, molto affanno, e chi accresce il sapere aumenta il dolore. Vi strassicuro, ecco, insomma, io non sono un sapiente. E come dice il buon San Tommaso d'Aquino, quando sai quattro cose, perché tanto sono sempre quattro cose quelle che noi sappiamo, anche se qualcuno si pensa di essere dotto, devi sempre ricordarti che tutto quello che sai è niente in confronto di ciò che Dio sa, e che sono enormemente di più le cose che non sai piuttosto che quelle che sai. Tuttavia è vero che chi aumenta il sapere aumenta il dolore. Vi invito poi a riprenderle queste cose, sono espressioni, sono molto, cioè, su ognuna di queste parole si potrebbe fare una catechesi lunga un'ora. Ecco, dopo Vanitas Vanitatum, quindi questa overture, nel capitolo secondo, che andiamo adesso a riprendere, c'è subito la vanità dei piaceri e delle ricchezze. Io dicevo fra me: vieni dunque, voglio metterti alla prova con la gioia, gusta il piacere, buon divertimento. Ma ecco, anche questo è vanità. Del riso ho detto follia, e della gioia a che giova? Ho voluto fare un'esperienza, allietare il mio corpo con il vino e così afferrare la follia, pur dedicandomi con la mente alla sapienza. Io dico, dinanzi, questa è una parentesi mia, dinanzi a queste espressioni qui, se questo non è Salomone, volevo scoprire se c'è qualche bene per gli uomini che si possano realizzare durante, sotto il cielo, durante i pochi giorni della loro vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto di ogni specie, mi sono fatto vasche per irrigare con l'acqua con le piantagioni in crescita, ho acquistato schiavi e schiavi e altri ne ho avuti in casa. Ho posseduto anche armenti e greggi in gran numero, più di tutti i miei predecessori a Gerusalemme. Ho accumulato argento, oro, ricchezze di re e di province. Mi sono procurato cantori e cantatrici insieme con molte donne. Ditemi se questo non è Salomone, delizie degli uomini. Poi sono divenuto più ricco e più potente di tutti i miei predecessori a Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Ditemi sempre se questo non è Salomone. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, ne ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore, che godeva ad ogni mia fatica. Questa è stata la parte che ho ricavato da tutte le mie fatiche. E ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che ho affrontato per realizzarle. E ecco, tutto è vanità e un correre dietro al vento. Espressione tipica, è bellissima questa qui. Si può correre dietro al vento? Lo acchiappi il vento? Cioè, hai visto l'espressione? Quando uno rimane con un pugno di mosche in mano. Non c'è alcun guadagno sotto il sole. Vedete come c'è proprio il, dice, quindi io ci ho avuto tutto, d'accordo? Di tutto e di più. Sai che ci fai con questo? Ci fai il sapone. Io ho conosciuto, insomma, più di qualche peccatore che ha avuto un'esperienza analoga, e l'unica cosa positiva che porta all'esperienza del peccato è questo qui, sapere che lì la vita non c'è, perché chi non l'ha fatto potrebbe anche essere tentato, ma chi l'ha fatto non c'è più nessuna tentazione, perché tanto sa che lì la vita non c'è. Poi ci sono una serie di ingiustizie sociali, altre cose brutte che ci sono in questo mondo, e vanità del lavoro. Quindi il lavoro è un'altra realtà che va relativizzata, eh. Per cui da quando Carlo Marx ha cominciato a dire che il lavoro è la causa d'essere del mondo e tutti gli uomini, qui stiamo ancora in piena idolatria del lavoro. Cioè, il lavoro va fatto e va fatto bene, per la gloria di Dio e per la giusta retribuzione, va eseguito con la massima perfezione possibile, con dedizione, con zelo, con tutto, ma va relativizzato. Non è la panacea. Sapete quante famiglie si sono sfasciate per la follia del lavoro da parte degli uomini e oggi da parte delle donne? Quanti figli crescono da soli perché le donne sono esaurite appresso al lavoro? Nessuno sta dicendo che una donna non debba lavorare se necessario, no? Capite bene quello che sto dicendo. Una donna c'ha la famiglia, c'ha i figli, non può fare la donna in carriera e fa crescere i figli con i nipoti. Perdonatemi, insomma. Fa crescere i figli con i nipoti, oggi proprio. Fa crescere i figli con i nonni. Accidicchia, oh. Mannaggia al demonio, rimandiamo un po' d'accidenti qua. Allora, presi in odio la vita, 2.17, perché mi era insopportabile tutto quello che si fa sotto il sole. Una volta c'era un nostro vecchio amico, un po' mattacchione, che era uno di quelli, non vi faccio i nomi, che c'aveva dalla vita tutto, d'accordo? Miliardario, con le macchine. Questo quando andava al pub, per pagare, a delle volte diceva, oggi non te pago. La volta dopo andava, si metteva le mani in tasca, c'aveva una montagna di soldi dentro, si piava una manciata di soldi, e li sbatteva sul testo. Non lo so, per pagare 5.000 lire gliene dava 300.000 lire. Era uno che campava così, sempre con le macchine, tutti a sapere, la Lancia Delta Integrale, quando ero giovane la Lancia Delta Integrale era proprio il top. Ecco, si alza una mattina e fa, ho concepito un pensiero nei confronti del mondo, uno solo, sterminio. No, ma guardate, io lo dico scherzo, cioè, perché questo era scemo, però c'aveva la nausea del vivere, uno che c'aveva tutto dalla vita. Io mi ricordo quando ero giovane rimasi molto sconvolto dal suicidio del Fio d'Agnelli, non so se di voi se lo ricorda, no? Si suicida il Fio d'Agnelli, e che se deve suicidare? Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. Questo dovrebbe applicarsi pure a me, pensate se viene il successore, eh? Un successore che mi sfascia tutto quanto, e che sfascia tutta la chiesetta. Che prende il martello e rompe. E la casa. E chissà se questi sarà saggio o tolto, perché è successo solo un cretino e ti distrugge tutto quello che hai fatto. Un padre che ha fatto un'azienda mega galattica, aria figlio, deficiente, dopo 2 anni se beve tutto e fallisce. Ecco qua, hai visto? Io avevo sentito. C'è un po' da ridere qua. Eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatica e intelligenza sotto il sole. Quindi capite che anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. E anche questo è vanità e male grande. Poi ancora, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa, anche questa è vanità. Questa è tutta storia, questa qui. Chi può contestare questo? È utile quello che comincia a dire, però così ti viene l'angoscia. È meglio che te viene, perché tanto questo è. Come quelli che non vogliono pensare alla morte. Voi sapete che c'era quello stupido di Epicuro, filosofo, da cui derivano gli epicurei, che sono quelli che credono, che identificano la gioia col piacere. Quindi carpe diem, cerca di divertirti perché domani muori, quindi cerca di acchiappare tutto l'acchiappabile. Quel cretino diceva, perché ti è provocato quando uno è proprio stupido, diceva la morte, ma la morte non è un problema. Perché, sentite bene, quando io ci sono la morte non c'è, e quando arriva la morte io non ci sono. Ma bravo cretino! Questo va bene per Rex, per il cane mio, perché c'è una grande differenza tra me e il cane, sapete qual è? Che io so che dovrò morire, il cane no. Questo è vero per gli animali, il mio cane non sa che deve morire. Cioè, se vede un cane morto vicino a lui, mica comincia a pensare, dunque, questo è morto. Se questo è morto, è tardi, suona la campana pure per me. Perché Rex non pensa, vede un cane morto e per lui è un ammasso di ossa morti. Chi lo sa che gli frulla per la capoccia, ma sicuramente non è in grado di fare questo pensiero. Ma per noi non è così, perché tu lo sai che la morte verrà. E non puoi esulare e esimerti dalla domanda... Se viene la morte, a che serve tutto quello che ho vissuto e che ci sta dopo? O quelli che cominciano a fare... Quando ho scritto l'opuscolo catechetico, il morire, morire nel Signore, non mi ricordo, c'era scritto tutto, memento mori. Quando vai a dire a qualcuno memento mori, guardate che i cristiani si salutavano così nel Medioevo, si salutavano dicendo memento mori, cioè ricordati che devi morire. Oggi la figura che ci ha fatto, guarda questo, bel saluto, fate gli affari tuoi, immaginate le corna, le cose, tocchi ferro, tocchi qua, che te tocchi ferro? Tanto tocchi ferro, tocchi ferro. Guardate quant'è, mannaggia al demonio qua. Ce ne sarebbe un altro, il capitolo 4, qualche versetto, 1-7. Andiamo un attimo a vedere, perché ho preso un po' di brani scelti tra i testi migliori. Ho conosciuto, tornai poi a considerare, queste sono giustizie sociali nel mondo, e non è che ci stava soltanto oggi, anche se oggi fanno più scalpore perché abbiamo i media, ma ci sono sempre state, solo che non c'era, non quelli delle Iene, non c'erano quelli di Striscia la Notizia che andavano a sbattere sui riflettori di tutti quanti. Però sono sempre state, tornai a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi e non c'è chi li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. Allora ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita. Ma più felice degli uni e degli altri chi ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. Ho osservato anche che ogni fatica e ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Parentesi, io ho sempre pensato che, fermo restando che è quello che è, l'odio verso il signor Berlusca è motivato da una sola ragione, l'invidia. Punto. Perché quello è ricco, sfondato, successo, un sacco di soldi e se ne importa di tutti, e gli altri no, punto e basta. Fermo restando e che prescindo volutamente dalla valutazione come dire morale, umana ed esistenziale dell'uomo e della persona, per tutto l'accanimento che c'è stato negli anni scorsi, ma non importa niente a nessuno, secondo me, il conflitto di interessi non importa niente, secondo me è solo un problema, sempre lo stesso problema. Quando vedi uno grande, ricco, potente che ci ha successo, l'uomo invidia, punto. Ecco. Anche questa è vanità e un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro al vento. E tornai a considerare quest'altra vanità sotto il sole. Il caso di chi è solo, non ha nessuno, né figlio né fratello, eppure non smette mai di faticare, nel suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo di bene, anche questa è vanità, è un'occupazione gravosa. Come si chiamava? Christmas Carol, ecco, quello lì, la storia del vecchio avaro, accumula, che ti accumuli? Poi la vanità del denaro, capitolo 5, 9, 16, ecco. Chi ama il denaro non è mai sazio di denaro, e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti. Ah, mannaggia, io sono stato in mezzo ai ricchi tante volte, Questo è proprio Vangelo questo qui. Anche questa è vanità, con il crescere delle ricchezze aumentano i profittatori, quelli che ti stanno intorno a fare i portaborse perché tu c'hai soldi. E quale soddisfazione ne riceve il padrone se non di vederle con gli occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Guardate, questa è proprio sapienza allo stato puro. Un altro brutto guaio ho visto sotto il sole: ricchezze custodite dal padrone a suo danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare, e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle mani. Guarda, dico, tante volte l'ho viste queste situazioni qui, frequentando insomma alcuni ambienti della cosiddetta Latina bene. Come è uscito dal grembo di sua madre, nudo ancora se ne andrà, come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. A Caronte non è che se gli dai l'assegno da 4 miliardi di euro non ti porta all'inferno, te ci porta lo stesso. Finalmente qualcosa inizia a fare. Quale profitto ricava dall'avere gettato le sue fatiche al vento? Tutti i giorni della sua vita li ha passati nell'oscurità, fra molti fastidi, malanni e cruci. Oggi sono aumentati, ci abbiamo da andare alle poste, se rompe il rubinetto, li chiama l'idraulico, se rompe la stoviglie, se guasta la linea DSL, se sfascia il computer, piove dentro al bagno e devi chiamare il muratore, se rompe il paio, è una cosa continua. Paghi le tasse, se sbagliano ti mandano gli accertamenti, devi mettere le cose, gli avvocati, non è vero, a destra, a sinistra, è tutta così la vita. Di questo vi ripeto, non vuole farci venire angoscia. E poi c'è un altro guaio grosso, che è il laccio delle donne, che beato a chi non ce l'ha. 7:26-28, questo Salomone lo sa bene, si vede però che non ha messo molto in pratica quello che scrive. Trovo che amara più della morte la donna, essa è tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge, quindi abbiamo buone speranze. Ma chi fallisce ne resta preso. Vedi quello, attenzione, vedi quello che sto scoperto, dice Coelet, confrontando a una le cose, per arrivare a una conclusione certa. Quello che ancora sto cercando e non ho trovato è questo: un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovato. Arrabbiate, non aveva ancora conosciuto la Madonna, questo dobbiamo subito specificarlo, insomma, ecco. Però adesso, a prescindere da voi che siete tutte brave, belle, buone, sante, dilette dell'Altissimo, però se la donna non assomiglia alla Madonna è così, perché dentro ogni donna, anche dentro tutte voi, c'è una femmina, e la femmina, guarda, Dio ci guardi dalle femmine, che la femmina è tremenda, Quindi vi lascio questo soggetto di di meditazione coelettiano. Poi abbiamo l'ultima parte. Guardate un po' che bella questa. È bella questa, eh? Teschio con la donna. La donna davanti allo specchio a forma di teschio, tutto il giorno davanti allo specchio. Vorrei sapere gli affari vostri, quanto state lì a fare contemplazioni. Ecco, che te specchi, che te guardi allo specchio? Dio, che brutto. La morte. Capitolo terzo, torniamo un po' indietro. Ho detto che stanno un po'... Tutto al suo momento, questa è grande sapienza anche questo, eh? E ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quello che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. Questa è somma sapienza, eh? Un tempo per la guerra e un tempo per la pace, anche per la guerra, un tempo per amare e un tempo per odiare. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Noi non le capiamo le opere di Dio. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi la felicità durante la vita, ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa fa, Dio dura per sempre, non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere. Dio agisce così, perché lo si teme. Quello che accade già è stato, e quello che sarà già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'iniquità, e ho pensato dentro di me: il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Poi riguardo ai figli dell'uomo mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono bestie. E guardate che c'è un proverbio, c'è stata una frase cinica che dice: più conosco gli uomini più amo gli animali. E c'era il grande Seneca, il grande filosofo pagano, era il precettore di Nerone, qualcuno ventila anche un presunto carteggio con San Paolo, che diceva che ogni volta che sono andato in mezzo agli uomini sono tornato meno uomo di prima. Salvo rare eccezioni, il livello di abbrutimento e bestialità in giro è molto elevato, eh? L'uomo non ha, tra l'altro, infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa: come muoiono queste, così muoiono quelli, c'è un unico soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità, tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Tutto è venuto dalla polvere, vedete il mercoledì delle ceneri, e tutto nella polvere ritorna. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto mentre quello della bestia scende in basso nella terra. Mi sono accorto che nulla c'è di meglio dell'uomo per godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta, che potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui. Poi un'altra tematica, le chiacchiere. Queste sono alcune tematiche sapienziali. Andiamo rapidamente. 5, 1, 2. Non essere precipitoso con la bocca, Ricordate sempre che lo stupido dice quello che pensa e il saggio pensa a quello che dice. E il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Ok? Qui non c'è bisogno di commenti. Andiamo ancora avanti. I voti, attenzione a questo, perché c'è un sacco di gente che fa un sacco di sciocchezze. Adesso è arrivata la Quaresima, ho fatto il fioretto, ho fatto questo e questo. È meglio non farli per niente, ci dirà il Coelet, se poi non li osservi. 5:3-6. Quando fai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole davanti al suo messaggero, non dire che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia da adirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani, poiché da molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. Tu dunque temi Dio. Ancora, vedete, ci sono una serie di detti sapienziani, ne leggiamo qualcuno, vedete, per capire un po', anche qui ci sono delle sezioni con del materiale un po' sparso. Un buon nome è preferibile all'unguento profumato e il giorno della morte al giorno della nascita. È meglio visitare la casa dove c'è il lutto, questo è sacrosanto, che visitare una casa dove si banchetta, perché quella è la fine di ogni uomo e chi vive ci deve riflettere. È preferibile la mestizia al riso, perché con un volto triste il cuore diventa migliore. Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa. Meglio ascoltare il rimprovero di un saggio che ascoltare la lode degli stolti, perché quale il crepitio dei pruni sotto la pentola, tale il riso degli stolti, ma anche questo è vanità. Vedete che il proverbio latino risus abundat in ore stultorum viene dal libro del Coelet. Ancora, non essere facile, nel versetto 9, irritarti in cuor tuo, perché la collera dimora in seno agli stolti. Attenzione, non dire come mai i tempi antichi erano migliori del presente, perché una domanda simile non è ispirata a saggezza. Ok? Vabbè, questa era un po' una sintesi di alcuni detti sapienziali. E poi nel versetto 19-25 c'è un nuovo elogio della sapienza, questo è un tema tipico dei libri sapienziali che si trova anche qui. Leggiamo qualche versetto. La sapienza rende il saggio più forte dei 10 potenti che sono nella città. Non c'è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non sbagli mai. Poi bisognerebbe dirlo a tante persone che si vengono a confessare, spesso e volentieri, io non faccio peccati. Beato te, io se non mi confessassi una volta alla settimana, a quest'ora sarei già diventato un diavolo. Ancora, non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, altrimenti così non sentirai che il tuo servo ha detto male di te. Infatti il tuo cuore sa che anche tu tante volte hai detto male degli altri. Quindi non ci inalberiamo quando qualcuno ci ha detto qualcosa di male. E poi ricordate sempre un grande proverbio, questo ve lo dico io: se qualcuno ti parla male degli altri, ricordati che quando non ci sei parla male di te. Vi dico che tra i miei più grandi nemici, in molti mi parlavano male di altri preti. Dice, ah, quello era così, quest'altro era così, quest'altro era così. Quindi adesso parlano molto male di me. Però domani parleranno molto male di coloro di cui oggi parlano molto bene. Questa è grande sapienza, cari fratelli e sorelle carissimi. Va bene, comunque, adesso andiamo verso la conclusione perché è tardi, si è fatto tardi. Vi invito comunque a leggerlo, sarebbe un'ottima lettura spirituale per questa settimana. Ecco qua un'altra signorina che sta sempre a lisciarsi i capelli, ecco, con lo specchio tenuto dal fidanzato che deve vedere che si fa bella, poi tutta mezza scollatuccia fianche a quei tempi lì, ecco, vedete, e con un bel fiaschetto di vino vicino, dopo che si è acconciata si fa anche un goccetto, vedete che bella questa slide. Allora, no, fine. Capitolo 12, tanto non ci viene il disgusto. Non dimenticare Dio nella giovinezza, questo lo dirà ai vostri figli che devono dire al post-cresima. Mannaggia, che è l'unica chance. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia. Saltiamo qualche versetto, qui ce ne sarà anche prima, vanità delle vanità, dice Qoelet, vedete, tutto è vanità. E questo, diciamo, che è la fine del libro, prima dell'epilogo vero e proprio. Vanità delle vanità, dice Qoelet, tutto è vanità, è la conclusione, prima, sapete, la Bibbia di Gerusalemme, di ciò che è proprio l'epilogo vero e proprio. Quindi avete visto come il libro è circoscritto in queste due cose. Ora, nelle conclusioni, nell'epilogo si trovano due argomenti. Il primo è le parole dei saggi, 12, 9, 12. Oltre a essere saggio, Qoelet insegnò al popolo la scienza, ascoltò, meditò e compose un gran numero di massi. Qoelet cercò di trovare parole piacevoli e scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei saggi sono come pungoli e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni. Sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio. Non si finisce mai di scrivere libri e il molto studio affatica il corpo. E poi c'è l'epilogo degli epiloghi. Dopo l'ultima parola, che è un po' la sintesi di tutto il libro di Qoelet. Il senso e il fine di tutto il libro. Versetto 13. Conclusione del discorso. Dopo aver ascoltato tutto. Temi Dio e osserva i comandamenti. Perché qui sta tutto l'uomo, dice la traduzione del 2008. La traduzione antico diceva, perché questo per l'uomo è tutto. Dulcis in fondo, versetto 14, un richiamo al giudizio di Dio. Infatti Dio ci terrà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. D'accordo? Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.